Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Le 21:02, una buona serata da Anna Rita D'Ambrosio. Le notizie principali di oggi: partiamo dal referendum all'Italia, attesa per il risultato di Fiumicino. A Malpensa e Linate ha vinto il no all'accordo. Gentiloni ha convocato un vertice con i ministri a Palazzo Chigi. Volata finale per l'Eliseo, Macron favorito, borse in festa. Migranti, interviene anche la CEI sulle ONG, accuse vergognose, ma Di Maio insiste, chi nega vuole nascondere. Del Grande torna in Italia, sto bene, ho sofferto il carcere, vittima di violenza istituzionale. 25 aprile con polemica, l'Ampi, sia la festa di tutti, a Roma due cortei, il PD diserta le manifestazioni. Queste dunque le notizie principali che approfondiremo. Un grazie redazione intanto a Cristian Goldoni e regia Paolo Corleoni. Insieme dunque fino alle 22. Partiamo dal referendum all'Italia, che come detto resta la notizia in primo piano. Dovremmo collegarci con lo studio di Roma dove c'è il nostro Andrea Viali, perché l'attesa è tutta romana e riguarda Fiumicino. Buonasera Andrea. Sì, è così, buonasera. Si profila una vittoria del no a questo referendum su Alitalia, questo almeno stando ai primi dati che sono trapelati dallo scrutinio che, lo dicevi, è ancora in corso a Fiumicino, dove ha votato la gran parte dei dipendenti della compagnia, oltre 1200 lavoratori. I no sarebbero in larga maggioranza, 1900 contro 190 sì, sono dati ufficiosi e parziali, lo ricordiamo. Lo spoglio invece si è concluso a Malpensa e a Linate, qui i no sono stati 976, i sì 192, quindi no in larga maggioranza. Questo referendum, lo ricordiamo, riguarda il preaccordo raggiunto prima di Pasqua da azienda e sindacati con la mediazione del governo, che prevede, fra le varie misure, un taglio delle retribuzioni e 980 esuberi. Proprio all'accordo con i sindacati, i soci, sappiamo, hanno vincolato l'aumento di capitale necessario per evitare un fallimento della compagnia aerea. Con una vittoria del no, all'Italia rischia quindi il commissariamento e la liquidazione. A favore del sì, lo ricordiamo, in questi giorni si era speso proprio il governo, e nel pomeriggio il premier Gentiloni ha convocato a Palazzo Chigi i ministri che hanno seguito il tavolo all'Italia, cioè Calenda, Del Rio e Poletti, proprio per seguire il risultato di questo referendum. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. E poi ci sono in primo piano le elezioni francesi, festeggiate anche dalle borse. Oggi Macron ha incassato l'appoggio del presidente Hollande. Il giorno dopo la Francia si sveglia col sorriso di Emmanuel Macron, accolto davanti casa come una star, e il contrattacco di Marine Le Pen. Il giorno dopo il primo turno delle presidenziali, la Francia si sveglia subito di nuovo in campagna elettorale, con una mobilitazione che impone anche al presidente uscente di non tacere. Je voterai Emmanuel Macron. Voterò per Macron, annuncia dall'Eliseo François Hollande in un'insolita dichiarazione di voto che è un'esplicita chiamata all'azione contro un'estrema destra che è un rischio per il paese, dice, per la sua storia, i legami con gruppi estremisti e ancor di più elenca per gli effetti che avrebbe il programma del Front National, a cominciare dall'uscita dall'euro. Una mobilitazione generale, insomma, nell'interesse della Francia, che proprio nel suo cuore più colpito dal terrorismo, Parigi, non ha risposto con un voto nato dalla rabbia, ma ha sostenuto l'ex ministro, che incassa l'appoggio anche della grande moschea, oltre a quello immediato del conservatore Fillon, che si sfila però dalle legislative di giugno. A sua volta Le Pen, dal mercato di Henri-Beaumont, il suo feudo, vista la mobilitazione a favore dello sfidante, passa al contrattacco. È il vecchio fronte repubblicano, completamente marcio, che nessuno vuole più, tuona. Entrambi i candidati hanno subito ricominciato la loro corsa a caccia degli astenuti e ancor di più di quel 19% di sostenitori dell'estrema sinistra di Mélenchon, che col pugno chiuso non ha dato indicazione di voto, e soprattutto nei seggi delle banlieue e delle aree più depresse nulla può essere dato per scontato. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E i mercati, dicevamo, hanno premiato la vittoria di Macron, ampi guadagni dei listini europei. Parigi ha chiuso in rialzo di oltre 4 punti percentuali, più 3,4% il guadagno di Francoforte, più indietro Londra con un più 2,1%. Su tutti si è imposto imposta a Milano, che ha chiuso con un progresso di quasi 5 punti percentuali. La strada però per Macron potrebbe non essere così semplice. Ieri sera, davanti ai suoi militanti, in una scenografia all'americana, Emmanuel Macron si è comportato come se avesse già in tasca le chiavi dell'Eliseo. E apparentemente quello che credono anche i mercati. La realtà, come spesso avviene, è più complessa e problematica. Marine Le Pen è alla testa di un vero esercito, quello della Francia delle periferie, geografiche ed economiche, della Francia antisistema che al primo turno delle presidenziali vale più del 41% dei voti e nessuno ha dimenticato il 54,6% con cui i francesi hanno bocciato nel 2005 la Costituzione europea. E la Le Pen ha di fronte a sé l'avversario ideale, che è facile accusare, come infatti la leader del Front National già sta facendo, di essere l'erede di Hollande, che oggi gli ha assicurato il proprio voto, il candidato dell'establishment, delle élite arroganti, delle lobby finanziarie, della mondializzazione selvaggia. Rispetto a suo padre nel 2002, la Le Pen può contare su un serbatoio di voti che va dalla destra dura all'estrema sinistra, tra gli elettori di quel Mélenchon che per il momento si è rifiutato di dare un'indicazione di voto per il secondo turno del 7 maggio. Macron ha certo vinto la battaglia, ma non ancora la guerra. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. I carabinieri del ROS hanno arrestato a Torino un marocchino di 29 anni, irregolare in Italia dal 2008, promuoveva sul web l'ideologia del califfato islamico e istigava a compiere attentati contro i miscredenti, come li definiva, giustificando e inneggiando i recenti attentati commessi in Germania, Svezia e Francia. Nell'ordinanza di custodia cautelare il giudice per le indagini preliminari ha scritto che si tratta di un soggetto estremamente pericoloso. Si è chiusa con l'espulsione la vicenda di Gabriele Del Grande, giornalista freelance, fermato in Turchia il 9 aprile e trattenuto per 14 giorni in un centro di identificazione. «Sto bene, non mi è stato fatto alcun male, sono vittima di una ingiustizia istituzionale», ha detto al suo arrivo all'aeroporto di Bologna, dove è atterrato questa mattina. Poi il pensiero ai giornalisti ancora in carcere. «Tutti i detenuti in generale e a tutti i giornalisti che invece sono ancora in carcere e che sono in condizioni anche molto peggiori della mia, anche in Turchia e anche in altri paesi del mondo. Insomma, il mio caso è un caso risolto, ma non ci dimentichiamo degli altri. Dei quali parleremo più in là. Le altre notizie: il Consiglio di sicurezza dell'ONU deve essere preparato a imporre nuove sanzioni alla Corea del Nord, l'ha detto Donald Trump. Poco prima l'ambasciatrice americana all'ONU, Nikki Haley, non aveva escluso un raid degli Stati Uniti contro la Corea del Nord se Pyongyang effettuerà un altro test nucleare. E dopo un primo parziale disinteresse in merito alla NATO, il presidente Trump è tornato a chiedere che gli alleati si impegnino di più, lo ha dichiarato in una intervista con l'Associated Press. Dopo le polemiche sui contributi all'Unione Europea, un altro fronte rischia di aprirsi in Italia, quello dei contributi alla NATO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ne è convinto. Gli europei devono pagare di più per l'Alleanza Atlantica. Con il premier Paolo Gentiloni abbiamo scherzato, rivela l'Associated Press. Gli ho detto devi pagare di più e pagherà. Finora nessuno gliel'aveva chiesto. La mia è una presidenza diversa. L'aumento dei contributi della NATO è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Trump. Negli Stati Uniti le spese per la difesa ammontano al 4% del PIL, in Europa all'1,5%, in Italia all'1,1%. Ma se si aggiungono gli stanziamenti del Ministero dello Sviluppo Economico per i programmi militari e quelli per le missioni estere, si arriva all'1,4%. Dal Ministero della Difesa replicano: l'Italia ha sempre condiviso la necessità di un'equa ripartizione degli oneri per la sicurezza nel limite delle sue possibilità. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Migranti, non si placano le polemiche sul ruolo delle organizzazioni non governative. Di accuse ipocrite e vergognose alle ONG ha parlato il direttore di Migrantes della CEI, Monsignor Perego. Il vicepresidente della Camera, il pentastellato Di Maio, però conferma: chi nega vuole nascondere, dice. Siamo indignati, la reazione di Medici Senza Frontiere. Sono accuse fatte per raccogliere voti, dice Gabriele Eminente, direttore di Medici Senza Frontiere, intervistato dalla nostra Valentina Furlanetti. Le organizzazioni non governative, le ONG, sono un bersaglio molto facile ed in questo momento, come dire, è utile fare un tiro a bersaglio nei confronti delle ONG per chi si vuole posizionare, direi più che da un punto di vista politico, proprio da un punto di vista preelettorale. Questo penso che sia la spinta che muove queste persone. Non ricevete telefonate dirette dai trafficanti? Non l'abbiamo mai ricevute. Come tutto quello che succede in mare, non siamo noi a decidere, è la centrale operativa delle attività di ricerca e soccorso in mare, il cosiddetto MRCC, di fatto la Guardia Costiera Italiana, che ci dice cosa fare, dove posizionarci, quale barca andare a salvare, dove portare le persone che abbiamo messo in salvo. Quindi è la Guardia Costiera Italiana che vi dice dove portare, in quale porto portare questi migranti? Senza dubbio, sulla base di quelle che sono le esigenze del giorno, del momento, le condizioni meteo, le situazioni dei vari porti, riceviamo queste indicazioni direttamente dalla Guardia Costiera. Direttore, siete mai andati oltre le acque internazionali, cioè entrando in acque libiche con le vostre navi? Quando è capitato l'abbiamo fatto su espressa indicazione delle autorità competenti. Quindi sempre della Guardia Costiera Italiana? Sì, o comunque delle autorità libiche, laddove c'è una copertura da parte loro, ma comunque l'abbiamo fatto sempre su indicazione di chi ci coordina. Sono casi che si contano sulle dita di una mano, mentre invece l'anno scorso credo abbiamo fatto almeno 200 interventi di ricerca e soccorso in mare. Un'ultima ora che leggiamo insieme che arriva da Firenze. Dopo il tribunale di Ivrea, anche quello di Firenze ha riconosciuto il collegamento tra l'uso non corretto del telefono cellulare e l'insorgere di una malattia al nervo acustico. Lo ha riferito l'avvocato Paolo Maresca, che ha difeso insieme ad un collega un lavoratore ammalato. Dunque una sentenza uguale a quella di Ivrea, della quale evidentemente torneremo a discutere. La legislatura scade a febbraio 2018 e sono convinto che il governo non finirà il suo lavoro prima. Lo ha detto il ministro dell'economia Padoan in un'intervista oggi a Bloomberg TV, sottolineando che questo è il motivo per cui l'Italia, nonostante lo stop del referendum costituzionale, continua ad avere un'ambiziosa agenda di riforme accompagnata dalle misure di aggiustamento di bilancio e di sostegno alla crescita. Parole arrivate nel giorno in cui la manovra è ufficialmente in vigore, è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Noi parliamo di economia, parliamo di Jimmy Choo, che è in vendita. Così tante scarpe e solo due piedi. È una delle molte frasi di Carrie Bradshaw diventate celebri, almeno tra le fan della serie Sex and the City, in cui Sarah Jessica Parker interpretava una giornalista di costume, nonché, come dicono gli americani, una shoeaholic, una dipendente dalle scarpe. I suoi marchi preferiti? Manolo Blahnik e Jimmy Choo, gli stessi di un'altra giornalista, questa volta vera e italiana, Anna Dello Russo, che sostiene che al crescere della tristezza deve diventare più alto il tacco. Scarpe come antidepressivi, dunque. Jimmy Choo ora è in vendita, si mormora a Londra, dove l'azienda è quotata da circa un anno, e se l'operazione si farà, sarà senz'altro terapeutica per chi la vende. Jab Holdings, azionista di maggioranza. Il valore di Jimmy Choo è stimato in 825 milioni di euro, circa il doppio del fatturato 2016, cresciuto solo del 2% per via della svalutazione della sterlina legata alla Brexit. Ma la vera sorpresa è un'altra. Nello scorso anno a trainare le vendite sono stati i modelli da uomo, che ai tempi di Sex and the City non esistevano neppure. Non ci sono né ci saranno più le Jimmy Choo di una volta. Giulia Crivelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è il calcio in campo Pescara a Roma, il posticipo che chiude la 33esima giornata di Serie A, squadre sullo 0-0 dopo due minuti, gol annullato a Salah per fuorigioco. Prima di chiudere, perché tra pochissimo ci aggiorniamo sul traffico, però una parentesi su di noi, sul gruppo 24 Ore, tra breve su Rai 3 la puntata di Report dedicata alla crisi del gruppo con le posizioni di azienda e sindacati. A questo proposito vi ricordo che è stato pubblicato già ieri e oggi un comunicato congiunto dei giornalisti del Quotidiano, di Radio 24 e di Radio Core Plus, che anche domani potrete leggere sul Sole 24 Ore. Il comunicato ripercorre la vicenda ricordando le denunce fatte dagli stessi lavoratori, di cui conferma anche le preoccupazioni. Noi ci aggiorniamo sulle strade e poi torniamo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21 e 16 minuti, ritorniamo insieme per tutti gli aggiornamenti. Referendum all'Italia, il dato di Fiumicino non è ancora stato reso noto, va più lentamente del previsto. A Malpensa e Linate però ha vinto il no all'accordo. Gentiloni ha convocato un vertice con i ministri a Palazzo Chigi. La volata finale per l'Eliseo, Macron favorito sulle Le Pen, borse oggi in festa. Del grande in Italia, sto bene, ho sofferto il carcere, vittima di violenza istituzionale. Migranti, interviene la CEI sulle ONG, accuse vergognose, ma Di Maio insiste, chi nega vuole nascondere. E poi c'è l'ultima ora che vi abbiamo letto prima, danni da uso di cellulare, una nuova condanna per l'INAIL. Al caso di Firenze si aggiunge un caso a Firenze oggi gemello rispetto a quello di pochi giorni fa ad Ivrea. Queste sono le notizie in primo piano, ma come sempre noi facciamo dei focus e oggi il focus è d'obbligo, è quello che riguarda Alitalia. La vicenda Alitalia, questo referendum tra i lavoratori dall'esito quanto mai incerto, lo conosceremo in serata, si aspettava intorno alle 20 il risultato di Fiumicino che però non è ancora arrivato, posizioni molto distanti, anche scenari molto distanti che si prospettano. Io ho due ospiti in collegamento che ringrazio entrambi e che subito vi presento. Gregory Aleggi, docente di gestione delle compagnie aeree all'Università LUISS. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei. E poi Francesco Staccioli, membro dell'esecutivo nazionale dell'USB. Buonasera. Sì, buonasera. Allora, i risultati non sono ancora definitivi, ma il quadro sembra emergere con abbastanza chiarezza. Aleggi, tanto si è parlato, Gentiloni ha anche fatto una convocazione subito, insomma un no all'accordo come sembra profilarsi, quali conseguenze potrebbe avere? Come minimo di dover immaginare un percorso completamente diverso anche sotto il profilo azionario. Non dimentichiamo che uno dei problemi di fondo è che per la normativa nazionale ed europea la compagnia italiana se il 51% del capitale italiano. Questo di fatto impedisce a Etihad di intervenire, se lo volesse fare, cosa che non è affatto chiara, con le risorse che può mobilitare. Però senza Etihad significa dover fare uno sforzo veramente italiano per intervenire e rilanciare e investire. Quindi insomma c'è la contraddizione, chi potrebbe forse non può e chi potrebbe non vuole. Quindi la situazione si profila estremamente incerta, aggravata dal fatto che insomma è la terza volta in meno di 10 anni. Quindi, ecco, questo è quello che colpisce, cioè una compagnia veramente senza pace per una gestione evidentemente sbagliata. Forse più che una gestione manca la, come dire, la realizzazione di quello che più o meno tutti concordavano si dovesse fare. Io di solito uso l'esempio dello scolapasta, ovvero per riempire uno scolapasta cosa bisogna fare? Molti rispondono chiudere i buchi. Io dico bisogna aprire il rubinetto e metterlo sotto l'acqua, perché altrimenti ho una pentola ma sempre una pentola vuota. Il caso d'Italia cosa significa? Lavorare sui ricavi. Quasi tutti gli interventi di cui si parla sono incentrati sui costi, ma i ricavi non si capisce perché dovrebbero crescere. A quel punto inseguire, come dire, sempre giri di tagli successivi difficilmente può essere una soluzione. Chiudere qualcosa, cedere qualcos'altro, ridurre, per carità, va bene, però siccome si è sempre detto in ciascuno dei tre interventi che si era efficientato, gestito, è difficile credere che ci siano grandi nuove ricette sul lato del taglio dei costi. Quello che continua a mancare è la crescita. Diciamo, abbiamo perso un decennio in cui si poteva crescere sul lungo raggio, che era la parte più remunerativa del business, e adesso forse anche volendo diventa difficile farlo perché da qualche mese c'è una compagnia che si chiama Norwegian Comunitaria che offre il low cost anche sul lungo raggio. Quindi anche quella che fino a qualche tempo fa poteva essere una via d'uscita, adesso diventa difficile. Norwegian incomincia a offrire voli a lungo raggio a costo ridotto anche da Fiumicino, dalla quindi base. Insomma, siamo arrivati tardi ancora una volta. E Staccioli, ecco, come sempre, i lavoratori poi sono quelli che pagano. L'USB non era favorevole all'accordo, ha detto che non era un piano industriale e quindi si è tirata fuori. Come guarda oggi a questo risultato che si profila, cioè questa vittoria del no? No, per prima cosa mi devo dichiarare d'accordo con il professore, perché è esattamente quello che non tornava di questo piano. È un piano che non prevedeva investimenti, ma un piano che prevedeva per la terza volta consecutiva aggire dei costi, dunque a forza aggire dei costi la situazione si era, come dire, entrata in una situazione di stallo. È chiaro che noi avevamo già posto questa questione da mesi al governo, agli azionisti, alle altre organizzazioni sindacali, avevamo detto che questa volta probabilmente i lavoratori avrebbero giudicato insostenibili queste misure. Abbiamo anche paventato, io lo dico senza alcun tipo di remora, no, un intervento diretto del governo che potesse rimettere mano al che piano, che però è stato escluso. Il fatto che sia escluso è una scelta politica, può essere rispettabile e legittima, tanto legittima quanto dire che è una scelta politica, che non è né una verità, né proibito dalla legge, né sconsigliato dai più. È un asset strategico, come ce ne sono altri in Italia, che se non vedranno lo sblocco degli aiuti di interventi diretti del governo, rischiamo di vedere depauperati tutta una serie di asset e di impoverire il tessuto industriale di questo paese. I lavoratori hanno scelto una strada in maniera consapevole, hanno ritenuto, valutato insieme a noi, insieme ad altre organizzazioni sindacali, non siamo l'unica, questo piano assolutamente non credibile, e il piano dei tagli, mi perdoni, ma se parliamo qui qualcuno parla ancora dell'8%, l'8% è uno dei quattro interventi sulla busta paga, i tagli sono intorno al 20 medio della busta paga, insomma al 18 medio della busta paga. Sì, ricordiamolo questo piano, appunto, sono tagli pesanti, poi i permessi calano a 102 l'anno e i nuovi assunti avranno un contratto d'ingresso a livello di una low cost. Guarda, il discorso è che l'insieme dei tagli, della mancanza di prospettiva è stata giudicata, adesso siamo ancora in corso, quindi stiamo ragionando di un trend di voto che si sta confermando molto forte, però voglio dire ancora siamo a metà dello spoglio, sta andando molto a rilento, quindi non mi va di dire cose. Credo che se ove fosse confermato questo trend probabilmente vincerebbe no, in misura assolutamente sorprendente se pensa che le sei organizzazioni che hanno siglato quella preintesa rappresenterebbero il 95% degli iscritti, e invece oggi stiamo parlando di numeri ben oltre il 50% dei no, voglio dire, però questo stiamo parlando di dati ancora non confermati. Questo piano d'Italia è stato giudicato irricevibile, il continuare ad agire sul piano dei costi è stato dichiarato alla terza volta insostenibile dai lavoratori, occorrerebbe coraggio e lungimiranza. Noi abbiamo chiesto di continuare le negoziazioni, l'abbiamo chiesto il 13 notte, quando gli altri si apprestavano a firmare, noi eravamo convocati in forma separata rispetto agli altri, alle altre organizzazioni sindacali, diremo e continuiamo a dire che adesso, di fronte a questo voto, è chiaro che si apre uno scenario molto preoccupante, ma la preoccupazione i lavoratori ce l'hanno ben presente. Però ecco, Aleggi, lei non si è stupito di questo trend, perché insomma Staccioli lo ha motivato più volte, lei si è stupito di questo trend, diciamo, verso il no? Non più di tanto, anche perché, e forse il rappresentante USB lo potrà confermare, il piano prevedeva, per ridurre i costi, ad esempio, di diminuire la presenza di Alitalia su molti scali, cioè di acquistare il servizio anziché produrselo. Chiaro che il personale al quale viene detto di votare sulla propria eliminazione non ha molto da perdere in quest'ottica, no? Quindi i sacrifici accettati nelle versioni precedenti senza grossi risultati tangibili hanno probabilmente lasciato anche lì un segno di profondo scetticismo. Quindi non c'è da stupirsi più di tanto. Posso dirle, conoscendo diverse persone, che ad esempio nell'ambiente dei naviganti questa volta le ricerche di lavoro presso altre compagnie all'estero sono già iniziate da un paio di mesi e quindi non, i piloti non stanno aspettando, diciamo, il crollo per andarsene. Quindi in qualche modo. Ecco, però il crollo adesso è più vicino, perché ecco, sì, si è parlato tanto dei rischi di questo no al commissariamento. Però, però dopo, come dire, diversi giri di espulsione di persone dall'azienda, dal processo produttivo, evidentemente qui lo scetticismo per la possibilità che un nuovo piano potesse invertire la tendenza c'era già. Quindi in qualche modo le conseguenze negative erano già metabolizzate. Da un lato c'è, come dire, una discontinuità aziendale, dall'altro c'è una discontinuità personale. Alla fine per l'individuo il risultato non è molto diverso, no? Quindi questo può aver contribuito a far pensare che non hanno nulla da perdere e che in un certo modo, se vogliamo anche perverso, sull'orlo del precipizio potrebbe essere più probabile un'assunzione di responsabilità diretta politica. Questo può essere un calcolo giusto o sbagliato, lo sapremo nei prossimi giorni, però, come dire, in questi giochi... Cioè, secondo lei questo è lo scenario possibile, no? A questo punto? Beh, diciamo, se non funziona il fare appello a una sorta, diciamo, di non voglio chiamare senso di responsabilità, ma insomma, che i lavoratori non ritengono che questo piano sia una soluzione, a quel punto chiamano il bluff e dicono non ci stiamo, politica accetta che la compagnia fallisca oppure prenditi le tue responsabilità e intervieni senza far agire, come dire, dei soggetti in tua vece che però alla fine non sono in grado di risolvere il problema. Staccioli, lei però ha già detto che a questa ipotesi della liquidazione in 6 mesi e al commissariamento non ha mai creduto nell'ipotesi di vittoria del no. No, no, io non ho detto che non ho mai creduto, non mi permetterei mai, io sono un reduce del primo commissariamento all'Italia del 2008, quindi ho smesso di non credere al peggio in questo paese, quindi glielo dico. Però avevo letto che insomma lei diceva non è la vittoria del no non è la tragedia definitiva, insomma. Ah no, io ritengo che la vittoria del no è la sconfessione di un modo. È la ribellione e la sconfessione del modo con cui questa azienda è stata distrutta pervicacemente da 15 anni a questa parte attraverso una riduzione del personale, il taglio dei salari che è già avvenuto e l'aumento della produttività di fatto equiparando le regole per esempio di impiego dei naviganti ai massimali della sicurezza europea. Allora questa è una, ai piani presentati così non crede più nessuno. Alle ipotesi di adesso fai sacrifici, tra 2 anni andrà meglio, non crede più nessuno. Quello che noi diciamo è che siamo consapevoli delle ipotesi di commissariamento e ciò che comporta, però io ci tengo a dire una cosa, almeno 2 cose. La prima, questa è un'azienda che ha 110 aerei e trasporta 24 milioni di passeggeri, dati del 2016. È un'azienda che fa trasporto aereo, non è che non trasporta nessuno, è un'azienda che perde un milione di euro al giorno e qualcuno dovrà anche spiegare il perché si perde 1 milione di euro al giorno. Seconda questione, una delle questioni che avevamo posto sul tavolo del governo era: questo mercato in Italia è falsato, drogato e ampiamente manipolato con dumping e con concorrenza sleale. Questo qui non si tratta di combattere il modello low cost, che è un modello industriale che ha tante forme, ma qui si tratta di dire se ancora continuiamo a permettere a qualcuno che opera saldamente nel nostro paese, al quale abbiamo aperto l'hub di Fiumicino, permettiamo ancora di pagare le tasse in Irlanda, permettiamo di non applicare lo statuto dei lavoratori. Certo, quindi l'intervento del governo insomma è a tutto tondo, allora, non è che deve mettere certo. L'intervento del governo era complessivo. Dopodiché certo, noi riteniamo in modo assoluto che la nazionalizzazione degli asset più importanti e produttivi di questo paese in un momento di crisi, in un momento in cui l'imprenditoria è in crisi evidente, e mi sto riferendo alla grande imprenditoria ovviamente, certo, non sia né una bestemmia né staremo a vedere. Mi sembra che la sintesi di questa serata, quando, ripeto, i risultati non sono ancora definitivi, sia aspettiamo di vedere che cosa succede, ma la scelta dei lavoratori è una scelta più che consapevole, soprattutto se i numeri saranno confermati in maniera molto evidente in una direzione piuttosto che in un'altra. Io ringrazio il professor Alegi e ringrazio Francesco Staccioli, membro dell'esecutivo nazionale USB. Vi riferisco la dichiarazione del presidente di Confindustria Boccia su Alitalia: non accetto, ha detto, il fatto che un'azienda in crisi possa andare a bussare alla porta del governo per avere delle agevolazioni. Appunto, questa era la sua risposta ad una domanda sul referendum dei lavoratori dell'Italia. Questo significa lavorare in emergenza, ha aggiunto, precisando di sperare che Alitalia trovi la sua strada nel rispetto del voto dei lavoratori e quindi delle responsabilità che ciascuno si assume. Staremo a vedere, torniamo tra pochino. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Le 21:35, referendum all'Italia, si attende il voto, il risultato di Fiumicino, quando sono state scrutinate circa 5.200 schede sui 10.101 votanti. Il no al preaccordo è in netto vantaggio, il no ha già prevalso a Malpensa e Linate. Volata finale per l'Eliseo, Macron favorito, borse oggi in festa. Del Grande è tornato in Italia, sto bene, ho sofferto il carcere, vittima di violenza istituzionale, le sue prime parole. E poi domani ancora un 25 aprile con polemica, l'Ampi sia la festa di tutti, a Roma due cortei, il PD diserta le manifestazioni. Queste dunque le notizie in primo piano oggi, approfondiamo adesso quelle dall'estero volando a Parigi. Abbiamo un ospite, lo ringraziamo, un giornalista, Francesco Maselli, che vive a Parigi e scrive per diverse testate. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti. Allora Francesco, ieri è stata una notte lunga ed è andata un po' come si prevedeva, anche se l'affermazione della Le Pen è un'affermazione forte. Qual è il tuo commento? Beh, che tutti i sondaggi, tutte le previsioni della vigilia si sono avverate quasi al millimetro, che è abbastanza impressionante proprio. Se fate la media degli ultimi sondaggi, proprio collimano con i risultati del primo turno, per cui in realtà questa campagna, che era stata segnata dall'incertezza, dai colpi di scena, poi alla fine non ha rivelato sorprese. Alcuni infatti sono rimasti delusi, si aspettavano un ennesimo colpo di scena, invece non è successo, e abbiamo appunto Macron, Marine Le Pen, che sono un po' due candidati agli antipodi. Il primo europeista liberale, sia sulle questioni di società che sulle questioni di economia, la seconda invece nazionalista, vuole chiudere le frontiere, uscire dall'Europa e dall'euro, ed è un interprete di una proposta più conservatrice anche in tema di società. Ecco, un'analisi del voto oggi, che appunto facciamo dopo qualche ora dalla chiusura dei seggi, è abbastanza interessante. Io vorrei farvi sentire un servizio relativo alla mappa elettorale, cioè come ha votato la Francia. Sentiamo, poi commentiamo. La mappa elettorale che disegna il voto francese divide il paese letteralmente in due tra i candidati al ballottaggio. L'ovest a Macron, l'est alla Le Pen. Il candidato centrista e liberale fa il pieno di voti in Bretagna e nei paesi della Loira, dove trova il suo serbatoio elettorale. Fondamentale a questo proposito l'appoggio del ministro della difesa e presidente regionale bretone Jean-Yves Le Drian, uno dei primi socialisti a schierarsi con Macron. Il candidato di En Marche sfonda anche nel sud-ovest della Nouvelle-Aquitaine e nel centro dell'Auvergne-Rhône-Alpes, conquistando pure la cruciale regione di Parigi, l'Île-de-France. Marine Le Pen si conferma nei suoi bastioni tradizionali, dove esce vincitrice: il nord di Normandia e Pas-Calais, l'est di Strasburgo, il sud del Mediterraneo con la Costa Azzurra e Marsiglia. I due candidati arrivati terzi, quasi a pari merito, seguono invece un'altra linea divisoria, quella nord-sud. Fillon arretra rispetto a Sarkozy, mantenendo alcuni bastioni in Normandia, paesi della Loira e sulle Alpi, ma crolla nella zona di Bordeaux, feudo del suo sfidante alle primarie Juppé. Sud-ovest e Mediterraneo sono stati invece i bastioni del candidato di estrema sinistra Mélenchon, che si è tolto qualche soddisfazione anche nella regione parigina. Per i socialisti meglio evitare di studiare la mappa del voto, per loro una vera e propria Caporetto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Francesco, allora per i socialisti sicuramente una Caporetto, e poi possiamo dire che appunto una Francia spaccata decisamente in due e una Le Pen che ha preso 2,5 milioni di voti in più rispetto a quando il padre ne prendeva tanti. Ma secondo te che cosa succederà adesso fino al ballottaggio? Che cosa potrà succedere? Ma in realtà non... tutti i numeri e anche la situazione politica dicono che Macron è molto favorito e questa elezione la può solo perdere. Tutti i sondaggi lo danno sopra il 60%, per intenderci. Però già è, se poi guardiamo invece quanto fa Marine Le Pen, cioè quasi il 40%, è già colossale. Quando nel 2002 è andato al ballottaggio il padre, con Jacques Chirac, finì 82-18. Quindi siamo sulla capacità di attirare un elettorato già molto più grande, molto più ampio. A me ha impressionato la normalizzazione del Front National, cioè mi ha impressionato il fatto che tutti i giornali francesi, tutti i media commentassero il fatto che il Front National al secondo turno come se fosse una cosa normale. Ecco, non lo era fino a pochi anni fa e adesso lo è diventato. Questo è già, secondo me, una rivoluzione, a cui si aggiunge la rivoluzione di En Marche, che è un partito nato un anno fa con un leader che fino a 3 anni fa non conosceva nessuno e che ha scalato le gerarchie e oggi si trova a 39 anni favorito. Ecco, molti dicono che tanto deve alla moglie, molto più grande di lui, c'è anche tutta questa storia poi personale, no? 24 anni più grande, la sua professoressa, insomma una grande storia d'amore. E, riuscirà, ecco, poi a formare un governo? Perché appunto dicevamo un partito nuovo, una novità assoluta, come farà poi per formare il governo? Ecco, questa è una bellissima domanda a cui per adesso da En Marche, il movimento di Macron, non hanno dato risposta, o meglio hanno detto: noi candidiamo in ogni collegio un uomo nostro sotto il nostro simbolo e se vinciamo la presidenziale vinciamo anche le legislative, perché va da sé. Questo è un po' il ragionamento che fanno loro. Tutti gli analisti, i giornalisti, i sondaggisti dicono che è molto molto difficile. Perché una cosa è vincere la presidenziale dove c'è un candidato che va da solo, e una cosa è vincere tanti collegi, sono 577 in totale, quindi se ne deve vincere la metà più uno, sono tanti, sono piccoli, e hanno dei candidati che magari hanno questo seggio da decine d'anni, per cui è veramente difficile strapparlo a volte. Quindi si crede che lui in qualche modo dovrà fare degli accordi con i partiti tradizionali, soprattutto con i repubblicani, che in questo momento sembra l'unico partito che ha più o meno tenuto, perché i socialisti sono praticamente scomparsi. Grazie a Francesco Maselli per questa analisi del voto francese. Noi restiamo all'estero perché andiamo in Turchia, ma per parlare di un ritorno. E allora vorrei, prima di collegarmi, e lo ringrazio, con Marco Barbonaglia che è in collegamento con noi, far sentire la voce di Del Grande tornato in Italia. Beh, prima di tutto questo bene è che nonostante, diciamo, la più grande difficoltà è stata la detenzione, la privazione della libertà, anche se nessuno mai mi ha mancato di rispetto, mi ha mostrato violenza, è una violenza istituzionale quella di cui sono stato vittima, che considero illegale quello che mi è successo, e gli avvocati sia in Italia che in Turchia si mobiliteranno per questo, perché il punto è appunto quello di un giornalista che viene privato della propria libertà per 14 giorni mentre sta svolgendo il proprio lavoro in un paese amico. In un paese amico stava svolgendo il proprio lavoro. Marco Barbonaglia, nostro collaboratore, nostro corrispondente ad Istanbul, in collegamento con noi. Buonasera Marco. Buonasera. Marco, allora, abbiamo sentito le parole di Del Grande, ma la prima domanda che volevo farti è: come in Turchia è stata diffusa la notizia della liberazione? La notizia è stata data da diversi giornali, più dai giornali, diciamo, di impronta più progressista, più laica, direi anche antigovernativa, ma in realtà è stata data anche dall'Hürriyet, che è il principale quotidiano del paese. È stata data in maniera abbastanza asciutta. Non dobbiamo dimenticarci che per i turchi ovviamente è una situazione tra le tante, ed è anche una situazione che si è risolta, seppur in tempi per noi naturalmente come italiani molto lunghi, però si è risolta bene, e in tempi paragonato a quello che succede ai giornalisti turchi, ovviamente in tempi anche brevi, perché in generale i giornalisti stranieri non vengono normalmente, voglio dire, messi in prigione, ma vengono appunto espulsi. Il caso di Del Grande è stato particolare, perché di solito l'espulsione richiede 2-3 giorni e poi non 14, certo, e no, non 14. Esatto. Senti, ma la situazione dei giornalisti, come peraltro ha anche detto poi Del Grande al suo arrivo in Italia, resta ancora molto pesante, sono ancora molti quelli detenuti. Sì, Del Grande si riferiva, parlando dei giornalisti in Turchia, ai famosi 150 giornalisti in carcere. Amnesty International ha parlato, cito il Washington Post di qualche giorno fa, di 120, insomma le cifre comunque sono più o meno quelle. Alcuni di questi rischiano condanne estremamente pesanti, fino all'ergastolo. La posizione ufficiale del governo turco è che non ci siano in Turchia giornalisti imprigionati perché fanno i giornalisti. Il governo turco sostiene hanno tutti commesso reati di altro tipo, non legati al giornalismo. Resta il fatto che ci sono appunto 150 circa giornalisti in prigione. Il caso di Can Dündar è forse il più famoso, lui è stato, rischiava una condanna all'ergastolo, poi nel giorno oltretutto nel quale poi è stato condannato, poco meno di un anno fa, a 5 anni di galera, ha subito anche un attentato dal quale per fortuna è uscito illeso. Gli hanno sparato, hanno tentato di sparargli davanti al tribunale di Istanbul, naturalmente questo non si sa chi naturalmente, e poi adesso vive in Germania, ma i casi sono molti, anche il caso di Denise Yücel per esempio. Ecco, di Del Grande ha colpito che lui lavorava sulla questione dei migranti, cioè non so, forse è stato arrestato poi al confine con la Siria, quindi insomma si intrecciano una serie di questioni nel caso del fermo così prolungato di Del Grande. Certo, poi è molto difficile capire quali fattori possano aver giocato per una procedura comunque diversa dal solito, molto più lunga. Bisognerebbe almeno capire come mai è stato fermato Del Grande, se stava tentando di attraversare il confine oppure no, in che zona si trovava. In Turchia ci sono molte zone che sono per le quali sono richiesti dei permessi speciali che bisogna chiedere, e altre zone, parliamo di zone per esempio al confine con la Siria, dove c'è una guerra che dura ormai da 6 anni, altre sono completamente vietato l'accesso, e però non sappiamo, bisognerebbe capire anche prima di dire qualsiasi cosa, capire dove si trovava Del Grande, comunque perché l'hanno fermato o se lo stavano già seguendo, per esempio. Questo potrà raccontarcelo lui, appunto, perché tra un po'. Indubbiamente. Lo scopriremo dunque tra breve. Io intanto ringrazio da Istanbul Marco Barbonaglia per aver approfondito con noi la notizia del ritorno di Del Grande in Italia. Noi torniamo ad aggiornarci sulle strade e poi torniamo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:47, referendum all'Italia, non ancora definitivo il dato che arriva da Fiumicino, la metà delle schede sono state scrutinate, il no è in netto vantaggio, no che ha già vinto a Malpensa e Linate. Volata finale per l'Eliseo, Macron favorito, borse oggi in festa. Del Grande è tornato in Italia, sto bene, ho sofferto il carcere, vittima di violenza istituzionale, le sue prime parole. Migranti, interviene la CEI sulle ONG, accuse vergognose, ma Di Maio insiste, chi nega vuole nascondere. 25 aprile, domani con polemica, Lampi, sia la festa di tutti, a Roma 2 cortei, il PD diserta le manifestazioni. Queste le notizie in primo piano, e noi approfondiamo proprio il 25 aprile, l'anniversario numero 72 della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, ancora all'insegna delle polemiche. Ringrazio Daniele Biacchessi per essere qui con noi e per approfondire un po' questo tema. Daniele, 25 aprile senza pace. Sì, dunque, innanzitutto ricordiamo che quel giorno veniva liberata Milano dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista, venivano liberate quelle ore Torino e Genova con l'insurrezione partigiana nelle città e l'offensiva alleata praticamente in tutto il nord Italia. L'offensiva alleata significava passare il fiume Po e quindi liberare tutta la parte che era stata occupata dai nazisti, ma che stava sotto l'egida della cosiddetta Repubblica di Salò. Dunque questo 25 aprile, cui sono passati 72 anni, è in realtà una data fondamentale, perché dovrebbe rendere attuali, secondo me, soprattutto per le nuove generazioni, i valori che hanno ispirato quel moto di liberazione antifascista nel nostro paese, un moto straordinario, importante. E invece no, e invece 72 anni dopo siamo ancora qui e probabilmente domani saremo ancora a dover commentare, spero non scontri, spero non violenze. Non incidenti, però insomma ancora polemiche. Sì, polemiche soprattutto politiche. Secondo me le polemiche su Brigata Ebraica, lo scontro post referendum tra PD e Lampi sono di una noiosità incredibile. Questo è relativo a Roma, no? A Roma il PD non parteciperà al corteo, c'è esatto. Tutta questa polemica post referendaria, come giustamente dicevi. Sì, secondo me lo scontro è quello, però è molto noioso, mentre invece secondo me il vero ragionamento che noi dobbiamo fare è che questa data rappresenta un passato che alla fine non passa mai, cioè che eventi di fascismo corrono praticamente per tutta l'Europa, corrono in Ungheria, in Germania, Olanda, Austria, corrono in questi giorni anche attraverso l'elettorato francese con l'affermazione di Marine Le Pen e sul fronte nazionale che sfiderà Macron al ballottaggio, ma sono venti che permangono anche in Italia, a mio avviso, dove e questo secondo me è il vero punto. Domani mattina ci sono grossi segnali di scontro, perché il questore ha vietato la presenza di gruppi neonazisti come Casa Pound o Lealtà Azione al cimitero di Musocco, cimitero maggiore. Ecco Daniele, ti interrompo un attimo perché anche la Boldrini, che oggi era a Milano, è intervenuta su questo dicendosi d'accordo con la decisione di impedire questa manifestazione. Sentiamola. In quella giornata si ricorda la liberazione dal regime fascista, dal nazifascismo, dunque è importante che in quella giornata si valorizzi la libertà, quindi autorizzare una manifestazione che invece si ispira a quel regime sarebbe assolutamente una contraddizione e anche un'offesa per il nostro paese. Ecco, un'offesa, la Boldrini sì. Diceva autorizzarla sarebbe stata un'offesa. Beh, l'hanno vietata, ma in realtà sia Casa Pound che le altre azioni domani mattina andranno comunque, così hanno annunciato, e si troveranno con alcune migliaia, forse decine di migliaia militanti di Rifondazione, di CGL e centri sociali. Quindi secondo me il vero problema è dunque il fatto che il reato di apologia e ricostituzione di questi gruppi che si ispirano direttamente al fascismo e al nazismo non viene mai applicato dai nostri legislatori, e a mio avviso l'antisemitismo, l'odio razziale e la violenza costituiscono 72 anni dopo i veri pericoli per lo sviluppo della nostra democrazia, molto fragile, ma comunque una democrazia. Tu dici che soprattutto, insomma, di fronte a tutto quello che stiamo vedendo, sì. L'unità, cioè, l'Italia, e i valori dovrebbero essere... Sì, l'Italia non è avulsa dai pericoli, da ciò che accade in Europa, e questi gruppi si ispirano direttamente al nazismo e al fascismo. Quindi domani massima allerta, sì. Massima attenzione. Il corteo invece del pomeriggio alle 14 è un corteo classico, tradizionale, poi ci sono manifestazioni, concerti, spettacoli come sempre in tutta Italia, ma a mio avviso è importante ricordare i valori della resistenza sempre, non solo il 25 aprile. Grazie Daniele Biacchessi per averci parlato di questo 25 aprile, sul quale ovviamente ci soffermeremo poi nella giornata di domani, sperando di non dovervi riferire di scontri. Domani intanto per molti segna il rientro a casa da un ponte particolarmente lungo, ma il tempo è previsto in netto peggioramento, lo sarà ancora di più nei prossimi giorni. Chiedo conferma e lo ringrazio a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Paolo. Buonasera. sera, sì, è vero, però guarda, domani in realtà il centro-sud ancora il tempo tiene, quindi per le regioni centro-meridionali sarà una giornata più che discreta, tra l'altro anche con clima abbastanza mite. È il nord che vedrà un po' di nuvole, ma per la verità con ancora poche piogge. Il peggioramento a cui ti riferivi in realtà arriverà mercoledì. Mercoledì sarà una giornata di forte maltempo al nord, con piogge anche piuttosto battenti. Piogge che poi tra giovedì e venerdì si sposteranno prima verso il centro e poi verso il sud. Piogge di cui però, aggiungo, abbiamo anche un gran bisogno, perché da un po' che non piove, soprattutto nelle regioni settentrionali. Comunque, per chiudere, sembrerebbe che il prossimo weekend, che tra l'altro sarà lungo per quello, perché c'è da aggiungere il lunedì del primo maggio, esatto, brava, dovrebbe essere di bel tempo, quindi insomma tutto dovrebbe risistemarsi per la fine della settimana. Senti Paolo, perché c'è stato un tempo abbastanza ondivago e c'è tantissima gente a letto con la febbre, compresa la sottoscritta, fino alla settimana scorsa, quindi ci possiamo sperare in una stabilizzazione quantomeno? Ma in realtà non ancora, perché la perturbazione che tra mercoledì e venerdì attraverserà l'Italia porterà aria anche più freddina, quindi queste temperature continueranno ad andare un po' su e giù, ed è questo poi che ci frega a tutti gli effetti. Però è anche vero che questa è la primavera, quindi facciamoci una ragione, ecco. Grazie, grazie a Paolo Corazzon per averci anche parlato delle previsioni meteo, che tanto sono utili in questo momento, devo dire col passare degli anni lo sono sempre di più. Noi siamo quasi per salutarci, siamo quasi in chiusura. Io voglio tornare però su Alitalia, perché abbiamo approfondito la questione in un intero blocco, ma il risultato di Fiumicino, quando sono quasi le 22, non è ancora arrivato. È stata scrutinata la metà delle schede e il no è in netto vantaggio anche a Fiumicino, no che ha già vinto, no all'accordo a Malpensa e Linate. Leggiamo allora il comunicato dei sindacati del trasporto aereo: attendono le valutazioni e le decisioni degli azionisti di Alitalia e del governo, nella consapevolezza di cercare fino all'ultimo ogni soluzione possibile per evitare decisioni che sarebbero traumatiche e non più modificabili. C'è questo comunicato congiunto di Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti e UGL Trasporto Aereo. Sono state scrutinate finora, riferiscono, 3.500 schede su 10.100. L'indicazione che arriva va nettamente verso la bocciatura dell'esito del confronto con governo e azienda. Quello che si evince, sottolineano i sindacati, è che la votazione è stata una votazione sofferta ma decisa contro un'azienda che ha fatto finora poco per risollevare le proprie sorti. Questo c'è scritto nel comunicato. Ci sono ancora 6.500 schede da scrutinare, alla fine delle quali avremo un quadro più completo e la visibilità area per area. Per il momento il personale di volo, quello che si evince, ha votato una prevalenza netta per il no, e questo lo abbiamo già detto, era ampiamente prevedibile. Dunque ancora una notte lunga sulla vicenda Alitalia, ancora un caso aperto del quale torneremo a parlare. Io ringrazio intanto in regia Paolo Corleoni e Cristian Goldoni in redazione per essere stati con noi stasera. Ci ritroveremo per tutti gli approfondimenti tra pochissimo in GR24 e poi ancora domani in Effetto Notte.